Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro, che fu costituito dal Signore Apostolo della circoncisione, ci ha lasciato scritto due epistole. In una di queste epistole, precisamente nella sua seconda epistola, ci dice che sorgeranno fra noi falsi dottori. Infatti dice nel secondo capitolo della sua seconda epistola: ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Allora, dobbiamo sempre considerare questo, che quello che Dio preannunzia che ci sarà è un decreto di Dio. Ossia, quello che Dio dice che avverrà è qualcosa che Lui ha prestabilito che avvenga. Quindi, quando il Signore dice tramite Pietro che ci saranno anche fra voi falsi dottori, questa è una parola che indica che ciò è quello che Dio ha stabilito debba accadere. È inevitabile, quindi. D'altronde il Signore adempie appieno la sua volontà, quello che Lui predice, quello Lui manda ad effetto. E non c'è nessuno che può impedirgli di mandare ad effetto la sua parola. E difatti abbiamo visto che questa parola si è adempiuta nel corso dei secoli e si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Infatti, in seno alle chiese vediamo falsi dottori o falsi insegnanti che introducono in mezzo alla chiesa e quindi in mezzo ai santi di soppiatto, cioè di nascosto, non palesemente, ma di soppiatto, eresie di perdizione o eresie distruttive, come mettono diverse Bibbie. Sono le loro eresie di perdizione, sono lievito malvagio che fa lievitare tutta la pasta, sono false dottrine che menano alla rovina, che menano alla perdizione. Sono false dottrine che guastano il campo di Dio, lo distruggono. E quindi è evidente che la Chiesa è chiamata a vigilare e a guardarsi dai falsi dottori. Ora, ci sono quelli che si guardano dai veri dottori, perché sapete, nella Chiesa ci sono molti che sono privi di discernimento. Invece di guardarsi dai falsi dottori, si guardano dai veri dottori. Perché? I fatti stanno così. Ci sono molti che, è vero che ci sono quelli che non hanno discernimento, ma ci sono, e quindi devono crescere nella conoscenza, hanno bisogno di sapienza da parte di Dio. Però ci sono anche coloro che non sono dei nostri, cioè che sono delle capre. Ora, noi sappiamo che il gregge del Signore è formato solamente da pecore, sono le sue pecore, i cui nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Le pecore del Signore ascoltano la voce del Signore, la conoscono e lo seguono. Però bisogna riconoscere che in mezzo alle chiese ci sono anche capre. Cioè ci sono uomini e donne che non sono pecore del Signore, non sono dei nostri. Ebbene, queste, queste capre danno, diciamo, accusano i veri dottori, i dottori stabiliti dal Signore, mentre si fanno paladini dei falsi dottori. D'altronde le cose stanno così, perché le capre, vedete, hanno una caratteristica: amano le menzogne, quello che non amano le pecore del Signore. Il giusto odia la menzogna, aborrisce la menzogna. Però attenzione, perché non esiste solo il giusto, ma esiste anche l'empio. Le capre sono degli empi e gli empi amano le menzogne che gli propinano i falsi dottori, che poi sono sempre uomini, questi falsi dottori, che lusingano le persone, le circondano d'ammirazione per motivi interessati, perché hanno questa capacità di adescare le anime per portarle in perdizione. E la loro opera di adescamento è efficace, bisogna riconoscerlo, perché riescono a trarre dietro a loro tante anime. Ora, cosa dice dunque la scrittura? Che costoro introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. Allora, questi falsi dottori hanno rinnegato il Signore. Un giorno erano stati riscattati dal Signore, quindi erano stati lavati con il sangue prezioso di Gesù, lo avevano conosciuto, però è arrivato il giorno che lo hanno rinnegato, lo hanno rigettato. E naturalmente, per avere fatto ciò, si attireranno la rovina addosso, perché la via di costoro mena alla rovina. La scrittura dice che a cagion molti seguiranno le loro lascivie, a cagion loro la via della verità sarà diffamata. E non è forse quello che sta avvenendo, che vediamo con i nostri occhi? Molti seguono costoro, e a cagione di costoro la via della verità viene diffamata, perché questi, i falsi dottori, sono degli operatori di scandali e fanno bestemmiare il nome di Dio con la loro scellerata condotta. E quindi, vedete, da un lato ci sono coloro che seguono appunto questi falsi dottori e naturalmente non si curano costoro, quelli appunto che seguono questi falsi dottori, che a cagione di questi falsi dottori la via della verità viene diffamata. Quindi la via della verità viene diffamata a cagione dei falsi dottori, non dei veri dottori. Ricordatevelo sempre questo. I veri dottori confutano in maniera efficace le eresie distruttive dei falsi dottori, mentre i falsi dottori non possono confutare ciò che insegnano i veri dottori stabiliti da Dio. Sapete perché? Perché i dottori stabiliti da Dio proclamano la verità e nulla si può fare contro la verità. E difatti veramente si coprono di ridicolo questi falsi insegnanti nel tentare di confutare coloro che predicano la verità. Ma è giusto che sia così, che facciano i loro tentativi maldestri, assurdi, ridicoli, perché così tutti vedono la differenza che c'è tra chi è stato stabilito da Dio dottore e chi invece si presenta come dottore, ma è falso. È falso, insegna falsità. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, già parole finte, perché queste persone sono finte e hanno nel loro cuore malvagio parole finte, con le quali appunto sfruttano le anime, le sfruttano, quindi abusano, no, di queste anime, siccome che sono, diciamo, cupidi di disonesto guadagno, cercano appunto con parole finte di arricchirsi, diciamo, tramite queste anime che loro sfruttano con parole finte. Esiste dunque uno sfruttamento con parole finte operato da falsi dottori in mezzo alla Chiesa. Costoro sono cupidi, sono amanti del denaro e quindi non possono fare altro, è più forte di loro, cercare di sfruttare la loro posizione per arricchirsi, per fare soldi sostanzialmente. Però tutto questo avviene con parole finte. Eppure ci sono quelli che si fanno sfruttare. Cioè, questi usano parole finte, che noi appunto le identifichiamo subito. Però dobbiamo sempre considerare che ci sono coloro che si fanno sfruttare da questi uomini veramente arroganti, stolti, malvagi, che usano parole finte. Però ricordatevi che il loro giudizio già da tempo è all'opera, dice Pietro, e la loro rovina non sonnecchia. Non sonnecchia! Attenzione a pensare che il Dio non guardi costoro, non ascolti costoro, che non consideri il male che fanno alla sua Chiesa. Attenzione, non pensatelo, perché colui che ha formato l'occhio guarda attentamente. Colui che ha piantato l'orecchio ascolta attentamente. Quindi anche costoro sono sotto la sorveglianza dell'Iddio vivente e vero, che a suo tempo gli fa trovare, che cosa gli fa trovare? Il salario della loro condotta. E che salario può essere il salario della condotta di questi empi? Un salario fatto di giudizi, dolori, guai, terribile, perché questi falsi insegnanti odiano Dio e lottano contro Dio. Pensano di essere più intelligenti di Dio. Ah, voi no, cosa pensate? Ci sono quelli che pensano di essere più intelligenti di Dio. Gli stolti pensano di essere più intelligenti di Dio. Pensate un po' voi che gente che esiste sulla faccia della terra. E in mezzo alle chiese c'è gente che si crede più intelligente di Dio, che poi il Signore puntualmente prende nella loro astuzia, li svergogna, li ridicolizza, li schernisce, perché Dio schernisce gli schernitori davanti a tutti. E la gente ride. La gente ride perché dice: ma guarda questi, si sono messi contro Dio, guarda che fine che stanno facendo. È la fine degli empi. Allora, vedete, a conferma di questo, che la loro rovina non sonnecchia, l'Apostolo Pietro ricorda dei giudizi di Dio, il giudizio contro quegli angeli che non mantennero la loro dignità primiera, ma si accoppiarono con le figliole degli uomini e disubbidirono a Dio, e Dio li inabissò, li gettò nell'abisso per il giorno del giudizio, dove sono incatenati. Guardate cosa c'è scritto. Perché? E queste parole Pietro le dice subito dopo aver detto il loro giudizio già da tempo all'opera e la loro ruina non sonnecchia. Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in anti tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Quindi vedete? Ricorda questo punto, punizione, che questi angeli di Dio ricevettero da Dio per essersi accoppiate con le figliole degli uomini. Voi sapete che gli angeli si possono materializzare, e una parte degli angeli di Dio, questo è scritto nel libro della Genesi, si accoppiò con delle figliole degli uomini. Ma Dio non li lasciò impuniti. non li lasciò impuniti, non li risparmiò. E infatti li inabissò. E questi angeli, da non confondere con gli angeli di Satana, attenzione, perché gli angeli di Satana sono liberi di agire, Ricordate infatti che il Signore mise un angelo di Satana per schiaffeggiare l'Apostolo Paolo, affinché non si superbisse. Ma badate bene, questi angeli invece non possono operare. Perché non possono operare sulla terra? Perché? Perché sono confinati in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Considerate dunque la punizione che il Dio inflisse a questi angeli che appunto furono, colpevoli di ribellione e naturalmente di fornicazione. Dunque poi dice, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, vedete un altro giudizio ricordato da Pietro, sì, perché quando si parla dei giudizi di Dio contro i falsi dottori, è bene ricordare questi giudizi affinché nessuno si illuda. Vedete? Viene citato anche il giudizio di Dio sul mondo degli empi, tramite il diluvio universale. Infatti il Signore non risparmiò neppure il mondo antico, che era il mondo degli empi. Ai giorni di Noè, infatti, voi sapete che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, ma Noè trovò grazia presso Dio. Noè, predicatore di giustizia, un uomo giusto, un uomo integro, e il Signore lo salvò con sette altri. Gli comandò di costruire un'arca per la salvezza della propria famiglia e appunto coloro che entrarono dentro l'arca e che poi il Signore chiuse dentro furono salvati. Ma il mondo degli empi fu punito, infatti il Signore sterminò ogni carne in cui c'era alito di vita, fu uno sterminio. Tutto ciò avvenne quando il Dio fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Il Dio fece venire il diluvio sul mondo degli empi, non madre natura! L'Apostolo Pietro credeva che appunto, come hanno creduto sempre tutti i cristiani, che il Dio ha fatto venire il diluvio sul mondo degli empi. Vedete? Altro giudizio che Pietro ricorda, come anche un altro giudizio, è quello contro Sodoma e Gomorra. Voi sapete, due città malvagie che erano date alla fornicazione, a vizi contro natura, si erano anche insuperbite, poi non sostenevano la mano dell'afflitto, del povero, benché vivessero nell'abbondanza queste città erano veramente città malvagie agli occhi di Dio, e il Dio non è che le risparmiò, le ridusse in cenere e le condannò alla distruzione, dice. Le condannò alla distruzione. Infatti di Sodoma e Gomorra non sono mai state trovate rovine, non ci sono reperti archeologici delle città di Sodoma e Gomorra, non potranno mai essere trovati. Semplice la ragione, perché sono state ridotte in cenere. In cenere! Ora Dio le condannò alla distruzione, perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente. Ecco. Perché vedete, il Signore anche opera castigando gli empi, affinché quei suoi castighi servano d'esempio a quelli che vivono empiamente, affinché non si illudano. Ma sì, ma dai, ma il Signore è buono e misericordioso. Molti dicono, certo che il Signore è buono e misericordioso, ma è anche un giusto giudice. E non lascia impunito il colpevole. Infatti Sodoma e Gomorra non furono lasciate impunite, furono ridotte in cenere. Infatti il Dio fece scendere su Sodoma e Gomorra fuoco e zolfo. Sì, sì, fuoco e zolfo. E le ridusse in cenere. E appunto da questo castigo salvò chi? Il giusto Lot. Il giusto Lot, quindi, non era mondano, come dicono i bugiardi. Quante predicazioni che ho sentito contro Lot. Ma ci fosse una volta che viene fatta una predicazione a favore di Lot, del giusto Lot. Il Signore lo chiama, la scrittura lo chiama il giusto Lot, e lo fanno passare per che cosa? Per un mondano, per un carnale. Ma se è chiamato il giusto Lot, vuol dire che era un uomo giusto, un uomo giustificato dal Signore, era un uomo che procacciava la giustizia, lo salvò il Signore, quindi non era un empio. Gli empi furono castigati, perirono nel castigo delle città di Sodoma e Gomorra, ma il Signore salvò il giusto Lot. Il giusto Lot era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati. Perché, dice Pietro, quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro iniquità. Sapete, accusano Lot di essere stato carnale e mondano perché abitava in Sodoma e Gomorra. Ma io dico, ma abitare in una città piena di iniquità quindi equivale ad essere malvagi? No, non è così. Ma non è assolutamente così. Ci sono dei giusti che abitano in città malvagie. Ma città malvagie se ne potrebbero citare tantissime. Se ne potrebbero citare tantissime. Per esempio, prendiamo la città di Tel Aviv, in Israele. La città di Tel Aviv è una città ad alta densità di omosessuali. È una città amica della comunità LGBT, cioè della comunità omosessuale, va? E molti si recano del continuo a Tel Aviv perché sanno che, diciamo, ci sono molte, molti eventi organizzati da omosessuali, insomma ci sono molte attività inique compiute da omosessuali. È una città malvagia, come lo era Sodoma o Gomorra. Ma non è che perché uno abita a Tel Aviv, che è in Israele, vuol dire che, automaticamente è malvagio. Ci sono dei nostri fratelli che abitano a Tel Aviv, però sono dei giusti, come lo era Lot, e che sono contristati dalla lasciva condotta degli scellerati. Però sapete, oggi c'è un piacere enorme a predicare contro Lot. E quelli che predicano contro Lot sono loro i carnali, sono loro i mondani. Sì, ho potuto appurarlo questo. Quel giusto, dice, che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta. Considerate, c'aveva un tormento nell'anima. Poi vedete che viene chiamata l'anima giusta. Il giusto Lot aveva un'anima giusta. E tutto questo a motivo delle inique opere degli abitanti di Sodoma e Gomorra. Vedete, il Signore lo salvò. Il Signore ebbe misericordia di Lot, come ebbe misericordia di Noè. Però vedete, ancora una volta, il Signore non lasciò impuniti i colpevoli. Il Signore infatti salva i giusti e punisce gli empi. Allora dice il Signore sa trarre, Pietro, dice il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. Sì, perché c'è un giorno chiamato il giorno del giudizio in cui gli ingiusti saranno puniti, sì, gli ingiusti. Infatti gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio e in quel giorno appunto saranno puniti. Il verbo punire nella Bibbia è molto presente, però oggi molti vogliono far credere che Dio non punisce. Non punisce nessuno. Ma la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, dice che Dio non lascia impunito il colpevole. Molti veramente hanno orecchie ma non sentono. Quindi il Signore, diciamo, sa riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. E massimamente, dice Pietro, quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze sprezzano l'autorità. Vedete? Il Signore quindi in quel giorno punirà anche quelli che sono carnali, che si danno ai piaceri della carne. Guardate come le chiama, le immonde concupiscenze. Che termini che oggi non si usano, che non si sentono menzionare. Immonde concupiscenze. Se cominci a predicare come predicava l'Apostolo Pietro, ti cacciano via da queste denominazioni, perché ti considerano un fanatico, un terrorista, ti considerano uno veramente mezzo matto, se non interamente matto. Guardate, guardate, leggete, leggete, fratelli, massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze. E quanti, quanti ce ne sono oggi? Che sono poi quelli che seguono i falsi dottori, uomini carnali, come i loro maestri cattivi. E poi dice, e sprezzano l'autorità, vedete? Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad essi innanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Sì, perché, vedete, questi falsi insegnanti amano deridere il diavolo. Il diavolo è una dignità. Ricordiamoci che è il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo è chiamato. Allora, voglio ricordarvi che l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. E invece che fanno i falsi dottori? Sprezzano l'autorità, non hanno orrore di dir male delle dignità. Infatti, questi falsi dottori amano, diciamo, affibbiare al diavolo nomignoli, no? Nomignoli tutti particolari per deriderlo, ma attenzione, fratelli, non seguite l'esempio di costoro. Parlate del diavolo come ne parla la Scrittura, senza aggiungere alcunché, senza aggiungere alcunché. Non sopporto coloro che, appunto, come dice la Sacra Scrittura, portano giudizi maldicenti davanti al Signore contro le dignità. Bisogna parlare anche del diavolo nei termini in cui ne parla la Sacra Scrittura. Non siamo autorizzati a deridere il diavolo. Sappiamo che il diavolo è il maligno, sappiamo che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo, sappiamo che il diavolo è bugiardo, padre della menzogna, omicida. Noi lo sappiamo, però dobbiamo stare attenti a non metterci a portare contro lui giudizi maldicenti, come fanno appunto i falsi insegnanti. Che poi, se poi andate a vedere la vita di questi falsi insegnanti, è una vita veramente al servizio delle immonde concupiscenze. Sì, sì. Proprio così, delle immonde concupiscenze. E io ho notato che è il diavolo che si fa beffe di costoro, sapete? Ci sono veramente di questi falsi dottori che quando si trovano sul pulpito veramente si rivolgono nei confronti del diavolo in una maniera che né Gesù né gli apostoli si sono rivolti, No, vedete, nelle chiese ci sono degli estremi, ci sono quelli che non parlano mai del diavolo, come se non esistesse. Addirittura non menzionano nemmeno la parola diavolo. Il nemico delle anime nostre. Ma questo nemico delle anime nostre, ma come si chiama? Il diavolo, il calunniatore. Diavolo viene da diabolos, che significa calunniatore o accusatore. O Satana, che significa avversario. Dico, c'è un nome, va chiamato col suo nome, non bisogna avere paura di fare il suo nome. La Bibbia lo fa, quindi se ci manteniamo nei termini prescritti dalla Sacra Scrittura, staremo al sicuro, resistiamogli, stando fermi nella fede, ma senza metterci a deriderlo. Vedete l'Arcangelo Michele cosa disse? Ti sgridi il Signore. Vedete? Comunque sia, c'è stata una forma di rispetto da parte dell'arcangelo Michele. Invece questi ribelli di falsi dottori si permettono veramente di oltraggiare il diavolo, deriderlo, delle cose veramente molto brutte da sentire. Allora dice, ma costoro come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Ecco, vedete, voi sapete che il Signore fa trovare a ognuno il salario della propria condotta. Eh? Questi sono vedete, questo agiscono come bruti senza ragione. Che espressione. Avete mai incontrato un bruto senza ragione? Non ci puoi ragionare, non ci puoi ragionare. Credetemi, non ci potete ragionare. Anche se tu gli dici la verità, non ti crede, non ti crede. Tu gli dici A, lui capisce B. Gli dici B e capisce A. È un bruto senza ragione. Nati alla vita animale per essere presi e distrutti. D'altronde, il Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio, per il Dio della sventura. Eh sì, fratelli, fratelli, nessuno si illuda, perché il Dio veramente a questi empi gli fa trovare quello che si meritano, il salario della loro iniquità. Perché vedete, ogni iniquità ha il suo salario, e questi appunto, servendo l'iniquità, poi ricevono il salario della loro iniquità. Il Signore gli fa trovare veramente quello che meritano di trovare sul loro cammino, su questa faccia, sulla faccia della terra, prima di farli veramente discendere nel soggiorno dei morti all'inferno. Anche questo, vedete, questa espressione. Periranno per la loro propria corruzione, quindi costoro non saranno salvati. Non saranno salvati, periranno. Periranno perché sono corrotti. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, quindi sono dati alle gozzoviglie, s'abbuffano. Oggi come le chiamano? Le mangiate. Comunque, gozzoviglie. Le gozzoviglie sono opera della carne, fuggite le gozzoviglie, come anche le ubriachezze. Sono macchie e vergogne godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. E già, perché partecipano ai nostri conviti, alle agapi. Partecipano alle agapi e costoro sono macchie e vergogne. E sapete, godono dei loro inganni, perché evidentemente è chiaro, sono persone che amando la menzogna, praticano l'inganno e ingannano il loro prossimo, loro godono nell'ingannare le persone, eh? Macchie e vergogne. Hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare. Eh già. Quindi sono persone che concupiscono la moglie del prossimo. E poi dice, adescano le anime instabili. Non quelle stabili, no. Quelle instabili. Quelle che sono sballottate qua e là da ogni vento di dottrina. Che sono come le onde del mare. Ecco, queste anime qui vengono adescate dai falsi dottori. Falsi dottori hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Infatti è scritto che nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Ecco, vedete, il loro cuore. E che cuore può essere il cuore di costoro? Che è esercitata la cupidigia, è un cuore malvagio, pieno di cupidigia. Amano il disonesto guadagno. Amano Mammona. Servono Mammona. Hanno il cuore esercitato la cupidigia, sono figlioli di maledizione. Sapete, bisogna prestare molta attenzione quando la scrittura definisce qualcuno figliolo di... Voi sapete, per esempio, che Giuda Iscariota è chiamato... Come è chiamato? Il figliuolo della perdizione. Infatti perì e andò in perdizione. Voi sapete che l'uomo del peccato che deve venire, cioè l'anticristo, è chiamato il figliuolo della perdizione. Perché deve andare in perdizione e ci andrà in perdizione. perché Dio lo ha stabilito. Ebbene, questi sono figlioli di maledizione, ditelo, proclamatelo assieme a me. I falsi dottori sono figlioli di maledizione. La maledizione di Dio è sopra di loro, sopra la loro casa. Infatti sono pieni, la loro vita è piena di dolori, di guai. Quando la maledizione di Dio è nella casa di qualcuno, si vede. Come si vede la benedizione? La benedizione si vede? E come se si vede? Si vede quando una persona è benedetta da Dio, che la grazia di Dio è con lui. E così si vede anche quando una persona è maledetta da Dio. Oggi le persone maledette da Dio vengono soprannominate, diciamo, dal mondo, iettatori. Quello porta sfortuna, gli va tutto storto e fa andare storte le cose agli altri. Non ti mettere con quello! Allora, queste espressioni che cosa indicano? Che quella persona indicata è una persona maledetta da Dio. La faccia di Dio è contro di lui. E poi naturalmente trascinano anche altri nei guai, nei dolori. Sostanzialmente tutto quello che toccano queste persone è maledetto da Dio. E questi qua sono veramente figlioli di maledizione. Non vi mettete coi figlioli di maledizione, non vi mettete con loro, altrimenti veramente vi riempirete di guai, di dolori, fratelli nel Signore. Siate savi. Di costoro poi l'Apostolo Pietro dice, continuando, lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione in un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Ebbene sì, questi qua un giorno erano sulla diritta strada. La diritta strada, ce n'è una sola. La via della giustizia, la via della verità, la via della salvezza. Però si sono smarriti, quindi si sono persi, seguendo quale via? La via di Balaam, che amò il salario di iniquità. Infatti costoro riceveranno il salario della loro iniquità, perché servono l'iniquità. Però vi ricordo che Balaam fu ripreso e il Signore si usò di un'asina muta, fece parlare questa asina con voce umana per reprimere la follia del profeta, sì, perché Balaam era un profeta. E il Signore represse la follia, vedete, cioè pazzia proprio. Ma sapete quanti Balaam ci sono oggi in mezzo alle chiese? Ma sapete quanti Balaam oggi ci sono nelle chiese? E il Signore naturalmente usa chi vuole lui per riprendere questi moderni Balaam. Leggete la storia di Balaam nel libro della legge. Perché è una storia istruttiva che serve anche da ammonizione, perché poi il Signore naturalmente punì Balaam, perché Balaam insegnò, come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, dice, perché c'è la dottrina di Balaam, dice il quale insegnava a Balak era un re, a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Quindi attenzione, perché i moderni Balaam professano la dottrina di Balaam, che fa cadere naturalmente nel peccato. Ebbene, il Signore punisce i moderni Balaam, ma anche punisce coloro che si lasciano appunto ingannare da questi moderni Balaam. Però il Signore, sapete, c'ha sempre i suoi modi, i suoi tempi, c'è sempre coloro che poi ammoniscono questi Balaam e chiamano appunto il salario di iniquità. Costoro, e qui sempre l'Apostolo Pietro parla sempre dei falsi dottori, sono fonti senza acqua, una fonte senza acqua. Che fonte è? Che fonte è? Nuvole sospinte dal turbine, allora è riservata la caligine delle tenebre. Cioè, guardate che la fine che faranno costoro è terribile, eh? È terribile la fine che faranno i falsi dottori. Perché con discorsi pomposi e vacui adescono con le concupiscenze carnali e lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete, questi falsi dottori sono schiavi del peccato. Il peccato li ha vinti, però promettono la libertà. Vuoi essere libero? Vieni qua, ti diamo la ricetta, perché questi c'hanno la ricetta. C'hanno la ricetta per diventare liberi, questi falsi dottori, loro che sono schiavi della corruzione. E adescano, capito, con questo messaggio di libertà, vieni con noi, sarai libero. Che poi alla fine questa libertà è la libertà di peccare, non la libertà dal peccato. Questi non ne vogliono sentire parlare di libertà dal peccato. Questi vogliono, parlano della libertà di peccare. Sì, sì, perché poi alla fine, quando loro parlano di libertà, intendono proprio la libertà di peccare. Loro sì, ti parlano di libertà, sì, questo è vero. Anzi, è una delle parole più usate da costoro. Però alla fine costoro parlano di libertà, ma sono schiavi. Sono schiavi della corruzione, e quelli che gli vanno dietro poi diventano schiavi della corruzione anche loro. Attenzione a quelli che usano veramente molto la parola libertà, fatevi sempre spiegare che cosa intendono per libertà, perché oggi molti, no, dicono: fratelli, siamo liberi. Ma attenzione, sì, siamo liberi nel Signore, ma non siamo liberi di peccare. Non siamo liberi di pensare quello che vogliamo, di dire quello che vogliamo, di fare quello che vogliamo, perché noi siamo pur sempre schiavi di Cristo e quindi dobbiamo obbedire a Cristo, ai comandamenti del Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo si definiva schiavo di Cristo, io sono uno schiavo di Cristo. Io non sono autorizzato a fare quello che voglio, ma nella maniera più assoluta, pensare quello che voglio, dire quello che voglio, no, no, nella maniera più assoluta. Siamo liberi nel Signore, ma siamo liberi dal peccato. Però molti, invece, pensano di essere liberi di peccare. No. Attenzione a quelli che vi fanno capire che voi siete liberi di peccare, perché sono dei peccatori. Sono dei peccatori che vi menano in perdizione, perché il salario del peccato è la morte. La morte. Dunque, l'Apostolo Pietro, proseguendo, spiega un po' costoro come mai sono, diciamo, diventati schiavi di qualcosa che li ha vinti, cioè l'iniquità. Perché dice, poiché, e spiega naturalmente quanto sia grave l'essere, diciamo, diventati schiavi dell'iniquità, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché meglio dice, sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Vedete dunque, costoro erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi avevano conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lo avevano conosciuto, infatti erano stati riscattati dal vano modo di vivere, erano stati riscattati, liberati dal peccato. Ma vedete cos'è successo poi? Si sono lasciati vincere dal peccato e sono diventati schiavi di ciò che li ha vinti. E la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima. Infatti questi qua, voi quando li sentite parlare, quando li vedete operare, sono peggio di quando veramente un tempo, prima di fuggire dalla contaminazione del mondo, servivano il peccato. Peggio! Oh, dicono, ma quello è diventato peggio di prima di essersi convertito. Sì, sì, è proprio così. La condizione di costoro è peggiore, la condizione ultima, è peggiore della prima. Allora vedete il monito, perché meglio sarebbe stato per loro che cosa? Non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Quindi vedete, costoro avevano conosciuto la via della giustizia, ma poi, poi hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Sì, è chiamato santo comandamento. Vi ricordate quando Pietro dice siate santi, perché io sono santo? E lui cita la scrittura. Ebbene, i falsi dottori si sono gettati alle spalle il santo comandamento che era loro stato dato. Quindi stiamo attenti, fratelli nel Signore, a non voltare le spalle al santo comandamento che ci è stato dato, perché altrimenti veramente diventeremo peggio di come eravamo prima di conoscere il Signore. Badiamo a noi stessi e che l'esempio dei falsi dottori ci serva per veramente guardarci dal fare cose malvagie, dal dire cose malvagie, che veramente il loro esempio ci serva per rimanere saldi nel Signore, ci serva per essere presi dal timore di Dio, perché noi vogliamo essere presi dal timore di Dio. Beato l'uomo che è sempre spaventato, l'uomo sempre timoroso di Dio, non l'uomo che si spaventa per un fruscio di foglia, cioè l'uomo che si spaventa davanti a Dio è beato, non quello che ha paura della sua ombra. Quello lì vive in paranoie terribili. Ci sono alcuni che veramente si dicono cristiani evangelici, ma veramente vivono in paranoie veramente assurde proprio. Sembra veramente che qualcuno li stia inseguendo. Quando parlano sembra che ci sia qualcuno alle loro spalle che gli stia dando la caccia. Una volta mi chiamò uno che si chiamava, si presentò come fratello, mi mette a ridere perché quando ci penso veramente non posso che ridere, e praticamente pace fratello Giacinto, perché si presentano tutti allegri, tutti trionfanti, pace fratello Giacinto, che piacere sentirti, e così via. A un certo punto mi comincia a parlare della mafia giapponese. Fratello Giacinto, c'è la mafia giapponese che mi sta perseguitando. Ho detto, scusa, cosa hai detto? La mafia giapponese, questo qui era un campano della Campania, e mi parlava della mafia giapponese che lo perseguitava, vedeva giapponesi da tutte le parti che lo inseguivano, ma questo viveva veramente nella paura più tremenda, e mi parlava appunto di questa mafia giapponese. La prima volta che sentivo uno che mi diceva che era perseguitato dalla mafia giapponese, ma era tutta una sua paranoia. E ci sono veramente che vivono nella paranoia e che poi trasmettono queste paranoie agli altri. Attenzione fratelli, noi dobbiamo essere timorosi, sì, spaventati, sì, ma davanti alla maestà del grande Dio. E chi, guardate, teme Dio non ha paura di nessuno e di niente, ma alcuni hanno paura persino della propria ombra. Io mi domando, ma questi come fanno a vivere? Ma come fanno a vivere che hanno paura persino della loro ombra? Terribile. Però sapete, tutte queste esperienze, diciamo, servono. Servono. A me queste esperienze servono ad apprezzare veramente la grazia di Dio. Signore, ti ringrazio. Non che sono migliore di altri, no. Che mai fatto grazia. Perché è una grazia veramente vivere nella gioia, nella pace, nella tranquillità. Poter veramente addormentarsi in pace, risvegliarsi la mattina in pace, vivere tranquilli, camminare a testa alta, è bellissimo, è meraviglioso, ma è tutta una grazia da parte di Dio. Quindi attenzione a non voltare le spalle al santo comandamento che ci è stato dato. Viviamo nella santità, camminiamo nella santità e quindi procacciamo la santificazione nel timore di Dio, perché veramente il Signore vuole che noi siamo santi in tutta la nostra condotta. Non seguite l'esempio dei falsi dottori, la cui via veramente mena alla rovina, mena in perdizione, passeranno l'eternità nel fuoco eterno, quando poi in quel giorno saranno giudicati, nel giorno del giudizio, dove saranno gettati? Gettati nel fuoco eterno. Ricordatevi, è un fuoco eterno, non è un fuoco che durerà per un po' di tempo e poi si estinguerà, no, no, è manco un fuoco purificatore. Ci sono delle dottrine veramente assurde. Ma no, ti dicono, ma quello è un fuoco purificatore, chi sarà gettato lì poi sarà purificato dai suoi peccati. No, no, chi sarà gettato lì sarà punito per i suoi peccati per l'eternità, tormentato a motivo dei suoi peccati per l'eternità. Ma quale purificazione? Poi ci sono quelli che dicono, ma no, ma sai, saranno gettati nel fuoco eterno, ma saranno annichiliti, ritorneranno a non esistere, ritorneranno a non esistere. No, no, no, no, no, no, no. Saranno tormentati nei secoli dei secoli. La Sacra Scrittura insegna il tormento eterno degli empi, non l'annichilimento degli empi. Ricordatevelo sempre questo, fratelli e signori, nessuno vi seduca con mani ragionanti. Quindi costoro, appunto, sono come il cane che è tornato al suo vomito, come la troia lavata che è tornata a voltolarsi nel fango. Eccoli là. Infatti, veramente, sguazzano nel vomito, nel loro vomito. Si rivoltano nel fango, nel loro fango. Che vita costoro, che fanno. Che vita miserabile, che vita veramente brutta che fanno. Infatti questi non amano la vita. E vogliono che anche gli altri non amano la vita. Sono dati al male costoro. Quindi i falsi dottori esistono, i falsi dottori vanno tenuti alla larga, non bisogna averci niente a che fare con loro. Niente. Sono degli alberi cattivi. Gli alberi cattivi che appunto portano frutti cattivi, il frutto della loro bocca è cattivo, infatti introducono di soppiatto eresie distruttive. Dal loro cuore cattivo, malvagio, tirano fuori eresie distruttive. Ce l'hanno là e quindi le tirano fuori. State attenti, non vi lasciate ingannare. E se incontrate un falso insegnante, riprendetelo, ammonitelo severamente e allontanatevi da lui. Non ci abbiate niente a che fare con questi che veramente che insegnano eresie distruttive. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.